Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io amo mio padre e non mi vergogno a dirlo. Mio padre è una persona per bene. Io sono fiera di lui e sono fiera di essere la prima nella famiglia Boschi ad essersi laureata. L'avrete senz'altro riconosciuta, cara ascoltatrice, cara ascoltatore, la ministra Boschi, che così si è difesa, diciamo, questo è un breve passaggio della sua difesa oggi alla Camera rispetto alla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle, che sapete non è andata in porto. Questo è sicuramente un argomento che ha avuto mille ricadute prima, dopo, ogni tanto ve lo riassumerò anche questa sera, la vicenda del crack delle banche che è arrivata, diciamo, fino a questo punto alla mozione di sfiducia. Dove si arriverà? Ieri abbiamo parlato della proposta di Renzi di affidare l'arbitrato per i risparmiatori vittime del crack delle banche a Cantone, e oggi appunto c'era il voto di sfiducia. Ne parleremo ampiamente nel meglio e nel peggio della politica della settimana, come sempre il bilancio qui il venerdì. Però un altro argomento grosso di oggi è questa svolta nel giallo di Marcheno, l'imprenditore nel bresciano Mario Bozzoli, che vi ricordate era sparito lo scorso 8 ottobre. Ci sono quattro indagati e sembra che questi quattro indagati emergano da una pista che già si intuiva dall'inizio, sono nella famiglia e non solo. E poi una domanda ci poniamo: pioverà o non pioverà? Perché Milano ha raggiunto nel 2015 tre mesi fuori legge, cioè ben al di sopra dei limiti sopportabili, insomma, che a norma di smog. Ci sono altre città italiane che stanno andando malissimo. È una denuncia di Legambiente. Fra l'altro c'è Pechino, anche se non ci riguarda così da vicino, Pechino che ha detto di stare in casa per almeno tre giorni. Insomma, c'è stato appena da poco tempo 21 la conferenza internazionale sul clima, e sentirete poi che ci sono alcune decisioni al ribasso anche in Italia, tanto per cambiare. Insomma, moltissimi gli argomenti. Vi dicevo, piove non piove, lo chiederemo al nostro meteorologo, perché la pioggia, anche se può non piacere, però porta via parecchio inquinamento, come ormai avremo imparato tutti. Vi sottopongo anche questa questione che riguarda i migranti. La Danimarca ha fatto questa proposta di legge, pensa di espropriare i migranti che arrivano in Danimarca dei loro beni di valore, lasciando loro solo quelli affettivi, sentimentali, come per esempio le fedi nuziali, come obolo in cambio di asilo, di assistenza sanitaria, di alloggi, eccetera, eccetera. L'idea è contenuta in questa proposta di legge per portare i rifugiati in linea con i danesi disoccupati, che pare che a loro volta rinuncino ai loro beni oltre $1,500 per ricevere assistenza e tutto il resto. Vi pare una buona proposta di legge questa della Danimarca, che dice che se i migranti qui da noi in Danimarca vogliono assistenza devono darci i loro beni? 349-238-6666, lo sapete da tempo ormai il numero per i messaggi, 349-238-6666, sms, oppure le vostre opinioni come sempre lì tranquillamente sulla pagina Facebook del programma di Effetto Notte. E allora iniziamo con i titoli più importanti. La mozione dei 5 Stelle non passa la sfiducia alla ministra Boschi, che sottolinea nessun favoritismo, se no mi dimetterei. Salvini avverte Forza Italia, se non vota la sfiducia a coalizione da ripensare. Vertice europeo, Renzi allo scontro con la Merkel, non dite che la Germania sta versando il sangue per l'Europa, dice il Presidente del Consiglio, e con i tedeschi divisioni sui depositi bancari, e l'Unione Europea conferma le sanzioni economiche per la Russia. Stati Uniti, Obama nella tradizionale conferenza di fine anno assicura: colpiremo l'ISIS più duramente che mai. Migranti, un barcone affonda nell'Egeo, 4 morti, 3 sono bambini, le vittime sono siriani diretti all'isola greca di Fermaconissi. Il giallo di Brescia, indagati per omicidio due nipoti dell'imprenditore scomparso e due operai dell'azienda Bozzoli. Mafia Capitale, l'ex sindaco Alemanno a processo per tangenti, accusato di corruzione e illecito finanziamento ai partiti. E poi la denuncia di Legambiente: da Milano a Napoli smog sopra i limiti e non c'è pioggia in previsione. Pechino lancia nuovo allarme inquinamento, teme l'apocalisse. Partiamo quindi dalla mozione di sfiducia dei 5 Stelle contro la ministra Boschi per la vicenda della Banca Etruria, dove il padre della ministra per qualche mese ha rivestito il ruolo di vicepresidente, mozione che però l'Aula della Camera ha respinto. La mozione di sfiducia contro Maria Elena Boschi compatta la maggioranza e spacca il centrodestra. Come previsto, la Camera la respinge con 129 sì, 373 no. Il ministro si difende in aula, in atto una campagna politica contro il governo, nessun favoritismo, nessuna banca di famiglia. La realtà dei fatti che oggi abbiamo portato in quest'aula è molto più forte del qualunquismo, del pressappochismo, della demagogia, di chi ci vuole dire che non siamo tutti uguali di fronte alla legge. No, cari colleghi, con il nostro governo siamo tutti uguali davanti alla legge. Tocca al Movimento 5 Stelle passare all'attacco dopo aver presentato la mozione. Alessandro Di Battista. Se anziché la Boschi vi fosse stata in epoca berlusconiana, la Polverini, la Gelmini, la Carfagna, sarebbero insorti tutti. Ma il centrodestra si spacca, Forza Italia decide di non partecipare al voto ed esce dall'aula. Il segretario della Lega Matteo Salvini avverte, allora bisogna vedere l'intera coalizione. Il problema è proprio dentro il partito azzurro, contestato il capogruppo Renato Brunetta, la cui poltrona sembra sempre più in bilico. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Montecitorio. E il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di truffa sulla vicenda della vendita delle obbligazioni secondarie di Banca Etruria. Secondo quanto appreso, non ci sono al momento indagati. Nel fascicolo c'è la documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori. E siamo al vertice europeo con il vivace scambio che c'è stato tra il presidente del Consiglio Renzi e la cancelliera Merkel sull'unione monetaria. Lui le ha chiesto per quale motivo non voglia lo schema dei depositi bancari. La replica è no alla comunitarizzazione. Cara Angela, non potete farci credere che la Germania sia il donatore di sangue dell'Europa. Così Matteo Renzi risponde alla cancelliera tedesca, convinta, secondo le stesse parole del premier, che il suo paese stia sostenendo il resto dell'economia. Non è un attacco alla Germania, sono solo domande, precisa Renzi. Dobbiamo uscire da questa cultura di subalternità per cui se uno pone una questione sta mettendo in difficoltà il rapporto con chissà chi. Anche la Merkel non si scompone più di tanto. Non è la prima volta che abbiamo diverse opinioni, ma alla fine troviamo un accordo, dice la cancelliera abbozzando anche un sorriso. Il riferimento è soprattutto alla garanzia europea sui depositi bancari. L'Italia la vuole, così come la Francia. Berlino no, non è d'accordo. Altro attacco, ma questa volta tutta l'Europa arriva sull'immigrazione. Lo schema di redistribuzione dei profughi non funziona. I numeri sono inaccettabili, accusa il premier. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è il rinnovo per 6 mesi fino al 31 luglio 2016 delle sanzioni economiche dell'Unione Europea contro la Russia. Vi ricordate per la questione ucraina che è stato avviato formalmente questo rinnovo dal Coreper, cioè la riunione dei rappresentanti permanenti dei 28 paesi, convocato per oggi pomeriggio dopo la conclusione del vertice europeo. Gli ambasciatori hanno approvato il lancio della cosiddetta procedura scritta che prevede l'espressione d'assenso delle capitali. Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea martedì. Le sanzioni in vigore scadono il 31 gennaio, quindi quelle che sono state fino adesso scadono il 31 gennaio e poi riprendono fino al 31 luglio. Stati Uniti, Obama nella tradizionale conferenza di fine anno alla Casa Bianca ha detto: colpiremo più duramente che mai l'ISIS, e ha precisato: rimarremo sempre vigili. E poi rispetto alla situazione della Siria e al dittatore Assad, dice: Assad deve lasciare per far sì che nel paese si metta fine al bagno di sangue, sottolineando che Assad ha perso legittimità fra i siriani e non ci sarà pace senza un governo legittimo, ha detto Obama. Ancora estero, in Libia, dopo la firma dell'accordo politico libico di ieri, Marocco, di cui abbiamo parlato, le Nazioni Unite hanno sottolineato oggi la grave situazione umanitaria che regna nel paese, dove su un totale di poco più di 6 milioni di abitanti, 2,4 hanno bisogno di assistenza. Il sistema sanitario è al collasso e a Bengasi il 73% delle scuole non sono più in funzione o risultano inaccessibili. Abbiamo parlato anche lungamente ieri di tanti nodi ancora aperti in Libia. Ultima giornata invece di campagna elettorale in Spagna. In vista del voto di domenica, il primo ministro Mariano Rajoy smentisce indiscrezioni su una possibile grande coalizione alla tedesca dopo il voto con i socialisti di Sanchez. Intanto Podemos vola negli ultimissimi sondaggi verso il secondo posto. Un'elezione con due sole certezze. Per la prima volta nell'era post-franchista la Spagna passerà da un bipartitismo a un quadripartitismo di fatto, e a vincere saranno ancora i popolari del premier Rajoy, anche se senza maggioranza assoluta. Questo apre scenari di governo inediti per la democrazia iberica. Gli ultimi sondaggi pirata del periodico d'Andorra, giornale del microstato catalano che ha aggirato grazie alla sua extraterritorialità le leggi spagnole sulle rilevazioni preelettorali, confermano il Partito Popolare primo e vicino al 26%, 4 punti sopra i socialisti di Sánchez. Chi rimonta clamorosamente la sinistra di Podemos a una sola inculatura dal PSOE. Forte calo della forza liberale Ciudadanos, ora al 16% quando a inizio dicembre puntava al secondo posto. Ma il quadro resta volatile e qualsiasi sorpresa è possibile, contando l'elevato numero di indecisi. Anche per questo gli scenari post-voto sono estremamente variegati. Scartata l'ipotesi di una grande coalizione popolari socialisti, ventilata nelle ultime ore ma subito smentita da Rajoy, si ipotizzano o un governo di centrodestra, ancora a guida popolare con l'appoggio esterno dei Ciudadanos di Rivera, o in alternativa un tripartito a guida socialista appoggiato da Podemos e Ciudadanos. Soluzione quest'ultima abbastanza improbabile considerata l'eccessiva eterogeneità degli schieramenti, ma di questo si parlerà lunedì. Ora la caccia è all'ultimo voto indeciso. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi comunico anche che in Afghanistan da 3 giorni c'è una radio dello Stato Islamico, l'ISIS, che trasmette da Nangarhar, provincia nord-est della capitale Kabul. Ad annunciarlo sono le stesse autorità afghane che hanno chiesto l'aiuto della NATO per distruggere la stazione. Vedete voi invece che fortuna di ascoltare Radio 24, in particolare Effetto Notte, tutte le sere. A proposito invece di migranti, ancora una tragedia. 4 profughi siriani, tra cui 3 bambini, sono annegati oggi nel naufragio di un barcone partito dalla zona di Bodrum, sulla costa Egea della Turchia, e diretto all'isola greca di Farmakonissi, riporta l'agenzia di stampa turca Dogan. E adesso quella proposta della Danimarca, sulla quale sto vedendo vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, cioè cosa propone la Danimarca rispetto ai migranti: di espropriarli dei loro beni in cambio di accoglienza. E sicuramente una proposta che fa discutere. A settembre sui giornali libanesi era stato pubblicato un annuncio delle autorità danesi, la cui sostanza era: non venite qui. Poi sono stati tagliati del 50% i benefit sociali che erano destinati ai rifugiati. Adesso il governo discute di una misura ancor più drastica: confiscare denaro e beni dei migranti, eccetto quelli sentimentali come la fede nuziale, perché paghino i costi della loro accoglienza. La legge si applicherebbe ai richiedenti asilo, a quelli entrati nel paese senza permesso, ma forse anche ai rifugiati che sono già nel paese. Da noi, sostiene il ministro per l'integrazione, alle persone a cui viene riconosciuto l'asilo politico è permesso frequentare le scuole gratuitamente e sfruttare il sistema sanitario come a tutti gli altri. Vengono forniti strumenti per l'integrazione fino a 3 anni, corsi di lingua e formazione professionale. Da notare che la Danimarca, come il Regno Unito, è fuori da qualsiasi obbligo relativo al ricollocamento dei migranti nell'Unione Europea. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E siamo al giallo di Marcheno, nel Bresciano. Vi dicevo di questa svolta nel giallo dell'imprenditore bresciano Mario Bozzoli, scomparso la sera dell'8 ottobre scorso dalla sua fonderia di Marcheno. È arrivato in tarda mattinata questa svolta quando i carabinieri di Brescia hanno suonato la porta di Giacomo e Alex Bozzoli, nipoti dell'imprenditore, e degli operai Oscar Maggi e Aboye Akvasi, detto Abu. I 4, quindi 2 nipoti e 2 operai, sono indagati a piede libero con l'accusa di concorso in omicidio volontario e distruzione di cadavere. Poi ne parleremo ampiamente con un criminologo. E riguarda Brescia anche questo scoppio dell'ordigno rudimentale oggi davanti alla sede della Polgai di Brescia. È ritenuto una grave intimidazione verso la polizia, secondo gli inquirenti bresciani. Alfano però dice in questo momento che ci sono indagini in corso, sembra esclusa innanzitutto una pista di matrice di terrorismo internazionale. E poi l'inchiesta di Mafia Capitale inizierà il 23 marzo davanti alla seconda sezione penale, il processo a carico di Gianni Alimano, l'ex sindaco di Roma, che è stato rinviato a giudizio per corruzione e finanziamento illecito. Queste sono le accuse. E intanto a Milano, per le primarie, anche un po' di politica locale, non tanto locale, insomma, a Milano è sicuramente in vista, ha un nuovo candidato, è la vice sindaca di Pisapia, Francesca Balzani. Da oggi corre ufficialmente per diventare il candidato sindaco del centrosinistra, anche contro il collega di giunta, l'assessore alle politiche sociali del comune Pierfrancesco Maiorino, in attesa della decisione finale di Giuseppe Sala, l'ex commissario dell'Expo. Per chiudere, smog dall'inizio dell'anno a oggi. Milano con 86 giorni è Milano a guidare la classifica delle città che hanno superato il limite stabilito dalla legge di 35 giorni all'anno con concentrazioni superiori a 50 microgrammi per metro cubo per le polveri sottili, famigerate polveri sottili PM10. Seguono Torino con 73 giorni, Napoli con 59 e Roma con 49, lo anticipa Legambiente. Poi sentiremo, vi dicevo, dal nostro meteorologo se c'è pioggia in previsione, si accettano scommesse. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, in particolare su questa proposta sui migranti della Danimarca. Tra poco. È Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, vedo i vostri messaggi che arrivano sulla proposta della Danimarca, ma anche su altre questioni. Sandro dice: la proposta danese, cioè di chiedere di rinunciare ai migranti e ai loro beni se vogliono accoglienza e assistenza, dice Sandro, la proposta danese a mio dire è ottima e profondamente giusta. Poi invece Luciano scrive: surreali media italiani, tutti moralisti con la Boschi, a proposito della mozione di sfiducia di oggi, mettendo in onda spot dove la frase è un investimento in capitale di rischio viene sempre sparata veloce o scritta in piccolo alla fine o sotto gli spot anche sul blog di Grillo. Buone feste Luciano, questo effettivamente è vero. Walter dice: la Danimarca, i cittadini pagano i servizi e allora i migranti dopo l'umana accoglienza devono pagare anche loro. E poi sempre sulla ministra Boschi, ascoltatore o ascoltatrice che si firma AS al 349-238-6666, dice: ce l'ha fatta la ministra perché ormai si dice a Napoli è bellella, è carina, dopo le Puppy Girls e le Boy Scout Girls, ma quando finirà questo musical, dice l'ascoltatore anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Però adesso andiamo a vedere quali sono i titoli principali di questa intensa giornata. Renzi che sfida la Merkel al vertice europeo, dice: non dite voi della Germania che donate il sangue all'Europa. E intanto Bruxelles spinge per l'unione bancaria mentre la Germania frena. Non passa la sfiducia alla Boschi alla Camera, 373 i no. Poi sulla Banca Etruria è stato aperto un fascicolo dalla procura di Arezzo per truffa, al momento nessun indagato. Italia senza respiro, da Milano a Napoli smog sopra i limiti, Pechino lancia un nuovo allarme, inquinamento teme addirittura l'apocalisse. E poi Obama nella tradizionale conferenza stampa di fine anno ha detto: Assad deve lasciare per mettere fine al bagno di sangue in Siria. E intanto per quanto riguarda i migranti, una nuova strage nell'Egeo, morti 3 bambini. Mafia, Roma capitale, ex sindaco Alemanno a processo per tangente, accusato di corruzione e illecito finanziamento ai partiti. E poi questa svolta sul giallo di Marchello di cui parleremo, ci sono 4 indagati. Eccoci qua al nostro bilancio, quindi consueto, bilancio della migliore o peggiore politica della settimana e dintorni, con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao Roberta, buonasera a tutti. Allora, molto velocemente elencherò i fatti principali, che sono ovviamente prima di tutto in primissimo piano la vicenda del crack delle banche, con tutte le implicazioni che ormai ascoltatrici e ascoltatori conoscete, perché e non mi stanco però di rispiegarvelo, perché milioni e milioni ascoltano costantemente Effetto Notte, ma ogni tanto qualcuno magari lo scopre così per caso, se ne innamora perdutamente. Quindi le implicazioni, vi dicevo, che ormai conoscete: i crediti azzerati per gli obbligazionisti dopo il crack e il salvataggio delle 4 banche, Banca Marche, Banca dell'Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti, le polemiche tra Unione Europea e Governo su chi ha determinato le regole per il salvataggio, poi le critiche agli organi di controllo, cioè Consob e Banca Italia, l'apertura di inchieste, l'indagine anche su Rossi, il procuratore che indaga sul fallimento di Banca Etruria, sino ad arrivare oggi alla mozione di sfiducia nei confronti della ministra Boschi, che avete visto che non è passata. E poi questa polemica tra Merkel e Renzi e diverse altre questioni, vedremo se ci sarà tempo poi di trattare. Allora direi, Fabrizio, di iniziare con alcuni passaggi della ministra Boschi oggi alla Camera. Li vogliamo sentire? Sì, sentiamo. Io amo mio padre e non mi vergogno a dirlo. Mio padre è una persona per bene. Io sono fiera di lui e sono fiera di essere la prima nella famiglia Boschi ad essersi laureata. E ricordo la gioia e la commozione di mio padre quando è venuto a Firenze ad assistere alla mia laurea. I miei fratelli più piccoli sono laureati, uno in economia e uno in ingegneria. E noi sappiamo quello che ha fatto mio padre per farci studiare. Lui, figlio di contadini, che per andare a scuola e diplomarsi ogni giorno faceva 5 km a piedi all'andata, 5 km a piedi al ritorno e 40 minuti di treno. Questa è la storia semplice, umile, ma forte della mia famiglia. Quindi un po' di storia familiare della ministra Boschi, che ha raccontato così con intensità, e poi dice: se fosse mai colpevole mio padre mi dimetterei. Sentiamola. Per il rispetto che nutro nei confronti della Presidenza e di tutti i colleghi, mi limiterò ad esporre i fatti. I provvedimenti emanati dal nostro governo hanno in qualche modo, seppur indirettamente, favorito la mia famiglia? Questa è la domanda. C'è stato del favoritismo? Una corsia preferenziale? La legge non è stata applicata in modo uguale per tutti i cittadini? Questo è il quesito che viene posto. Forse vi stupirò, ma se la risposta fosse sì, sarei io la prima a ritenere necessarie le mie dimissioni. Così ha detto la ministra Boschi, e poi ha detto anche che c'è una campagna contro il governo e contro la sua famiglia, che però non si sentiva in quella sede, insomma alla Camera, di valutare. Sentiamo però l'attacco del esponente del Movimento 5 Stelle di Battista. Se anziché la Boschi vi fosse stata in epoca berlusconiana la Polverini, la Gelmini, la Carfagna, sarebbero insorti tutti. Oggi per la questione della Boschi parla soltanto un intellettuale, Saviano, e voi rispondete a Saviano dicendo che il fatto che abbia sollevato il problema è il motivo è per vendere maggiori libri. Ipocriti! Onorevole Di Battista, si rivolga alla Presidente. Il ministro Boschi ha un conflitto grande, non come una casa, come una banca. Poi però la sfiducia, come sappiamo, non è passata. I voti a favore di questa sfiducia erano 129, però i contrari 373. Quindi per il momento, come commenti tutto ciò, Fabrizio Forché? Ma commento che mi sembra, diciamo, una polemica appunto molto ipocrita sulla base di quello che diceva l'esponente del 5 Stelle. Noi siamo davanti davvero a rischi enormi che coinvolgono tutti gli italiani, che coinvolgono il risparmio degli italiani, e questa vicenda davvero, in questa vicenda serve davvero grandissima responsabilità da parte di tutti. La declinazione di tutta questa questione che ne sta dando la politica, secondo me, è estremamente miope. Ognuno, ogni partito sta guardando a questa vicenda esclusivamente per un tornaconto elettorale di stampo politico, secondo me molto, come dire, a breve raggio, a raggio molto breve, e non guarda quali sono i veri problemi, e i veri problemi sono un sistema del credito e del risparmio italiano che in questo momento è sottoposto a gravissimi rischi e richiederebbe una responsabilità istituzionale da parte di tutti i partiti italiani, responsabilità che insomma in questa fase non si vede tanto. Fabrizio, tra l'altro questa vicenda ha creato conseguenze a domino, no? Le elencavo prima, ma c'è anche un'altra questione, anche molto politica, che aveva annunciato già Berlusconi giorni fa quale sarebbe stata la mossa di Forza Italia nel caso di un voto di sfiducia, di una mozione di sfiducia nei confronti della ministra Boschi. Noi per principio non abbiamo mai votato né mai presentato una mozione di sfiducia nei confronti del singolo. Ci sembra anzi che sia riduttivo presentare in questo momento una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Boschi, perché il disastro è molto più grande e riguarda tutto il governo e tutta la maggioranza dei sociali. E infatti così è stato, e lo spiega Roberto Chiuto di Forza Italia oggi. Nonostante ciò che è successo l'altro ieri, noi non utilizziamo quest'aula per dispetti o ritorsioni. Siamo stati contrari alle sfiducie individuali in passato e lo siamo oggi. C'è più coraggio, c'è più linearità nella nostra scelta. Usciamo dall'aula, anche perché i numeri rendono assolutamente inutile questa sfiducia individuale. Quindi Forza Italia è uscita dalla Camera, non ha votato. C'è il mistero su cosa abbia fatto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Brunetta, che prima si è detto ha votato la sfiducia, l'unico in tutta Forza Italia, tra i deputati di Forza Italia, lui poi ha smentito. Sentiamolo. Assolutamente no, nel senso che abbiamo insieme fatto una mozione di sfiducia al governo che verrà discussa molto probabilmente a metà gennaio al Senato. Per quanto riguarda la mozione del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle non ha concordata con nessuno, quindi noi abbiamo assunto la decisione di abbandonare l'Aula, come abbiamo fatto sempre con le mozioni di sfiducia individuale, e la Lega ha deciso autonomamente di votare invece sì alla mozione del Movimento 5 Stelle. Quindi Fabrizio Forché, tutta questa vicenda ha portato anche prima di tutto a una lacerazione interna a Forza Italia fra la linea colpevolista di Brunetta e quella innocentista di Romani, no? C'è stata anche una polemica, un battibecco tra di loro, e poi anche a una possibile, non so se proprio, rottura con la Lega di Salvini. Salvini ha avvertito Forza Italia, dice: ah, allora se non votiamo tutti uniti, se non votate la sfiducia, forse bisogna rivederla questa coalizione. Ma sì, insomma, è proprio quello che ti dicevo. Poi nella ricerca di un tornaconto immediato, l'esito è stato disastroso, un po' per tutti, è stata disastrosa anche appunto per l'opposizione, che ha presentato poi una mozione di sfiducia individuale che chiaramente non aveva nessuna chance di passare. Su questa alla Camera perché c'erano i numeri, no? Perché i numeri sono chiari a favore della Boschi, e quindi era diciamo un tentativo che chiaramente non avrebbe portato al risultato. Ha portato a indebolire il governo e la Boschi in ogni caso? Secondo me ha indebolito un po' tutti, ha indebolito anche un po' l'opposizione, che appunto si è presentata poi divisa, e addirittura Forza Italia si è divisa al suo interno. Ma ripeto, qui stiamo veramente guardando il famoso discorso dito e luna, no? Guardiamo il dito e non guardiamo la luna. Qui c'è altro che luna, ma c'è un problema enorme. C'è un problema, e lì davvero si dovrebbe discutere non tanto sul conflitto di interesse della Boschi, ma quanto il governo si poteva muovere prima e meglio su questa rivoluzione del bail-in, cioè delle regole che governano i fallimenti bancari e chi viene coinvolto nei fallimenti bancari. In questo paese noi siamo stati abituati per decenni al fatto che le banche non possano fallire, e se una banca è in difficoltà in qualche modo la si salva, e se non la si salva comunque come dire, a rimetterci sono l'intera collettività, ma non chi ha i soldi nella banca. Quindi come dire, avere i soldi investiti in una banca ti dà una totale sicurezza. Dal 1 gennaio, ma anche oramai da questi mesi, nel momento in cui l'accordo è passato è a livello europeo ed è stata recepita la direttiva europea, questo non è più vero. Le banche possono fallire e chi ha i soldi investiti in certe categorie di obbligazioni o oltre certi limiti anche nei depositi può essere coinvolto nel fallimento e perdere i propri soldi. Su questo si è perso tempo, non si è informati adeguatamente i cittadini, e forse si poteva chiedere, qui forse io vedo un difetto da parte del governo, cioè il governo doveva probabilmente capire prima l'impatto che avrebbe avuto questa nuova normativa e chiedere, come dire, forse una transizione più lunga, informare meglio i cittadini, cercare di utilizzare tutti gli strumenti possibili. Il fondo interbancario, sappiamo che l'Unione Europea ci ha impedito in qualche modo, ha frenato sull'utilizzo del fondo interbancario, forse si poteva fare di più, forse il confronto del Tesoro con l'Unione Europea poteva essere più duro su questo. C'è stata probabilmente una sottovalutazione a livello di governo. Ma cosa c'entra tutto questo con la Boschi, con questa polemica piccola, volgare che si sta facendo in Parlamento intorno al voto sulla Boschi? Qui davvero c'è una sottovalutazione di un problema enorme. Fabrizio, adesso invece, sempre appunto collegato a tutta questa enorme vicenda con varie ramificazioni, ti faccio sentire alcuni passaggi. Prima Renzi, poi Taddei, responsabile economico del PD, che ieri era qui a Effetto Notte, e poi il ministro Padoan di qualche giorno fa. A proposito della proposta di Renzi, ieri quasi insomma un'investitura ufficiale di Cantone, capo dell'anticorruzione, per gestire l'arbitrato per i risparmiatori. Sentiamo che cosa ha detto Renzi. Meno male che abbiamo fatto quel decreto che ha salvato la gente, quanto agli addetti ai lavori, nelle prossime ore cercheremo di fare tutto il possibile perché chi è stato truffato possa riavere i soldi, ma quelli truffati, quelli davvero truffati, e faremo degli arbitrati, e se è possibile l'arbitrato vorrei che fosse gestito non dalla Consob, non da Banca d'Italia, non dal Parlamento, non dal Governo, ma dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Raffaele Cantone, un soggetto terzo autorevole. E sentiamo quindi Filippo Taddei ieri Effetto Notte che cosa ha detto a proposito di questa scelta. La decisione è determinata da una ragione molto semplice, quella ragione è fare in modo che ci sia non solamente la percezione, non solamente la terzietà, ma anche la percezione della terzietà da parte dei risparmiatori. C'è stato abbiamo una grande perdita di fiducia da parte di alcuni risparmiatori italiani, a seconda perché hanno percepito di non essere stati sufficientemente tutelati. Quella fiducia va ricostruita e lo ricostruiamo con l'intervento di un'autorità prestigiosa, legittima e terza. Quindi appunto l'autorità anticorruzione, quella di Cantone. Questo significa, e poi prima della tua risposta, scusami Fabrizio, perché vorrei farti sentire Padoan del 13, quindi di 5 giorni fa, il ministro dell'economia, a proposito di Banca Italia e Consob, perché la scelta di Cantone, il fatto che insiste Renzi e anche Taddei sulla sua terzietà, sul fatto di essere autorevole eccetera, è come se in qualche modo sfiduciasse quindi Banca Italia e Consob, che dovrebbero essere due organi di controllo che avrebbero dovuto vigilare su quello che succedeva in quelle banche. Sentiamo Padoan anche cosa ha detto 5 giorni fa. Sgombriamo il campo da un equivoco. La fiducia nei confronti dei vertici Banca Italia e Consob è assolutamente confermata. Per quanto riguarda tutto questo episodio, è chiaro che bisognerà vedere eventuali individuali, singole responsabilità dal punto di vista dell'attività degli operatori bancari. Lo faremo caso per caso e questo ci servirà sia a individuare responsabilità che poi a decidere i termini del risarcimento. Quindi, cioè, Banca Italia e Consob che parte fanno? Le responsabilità vanno individuate a tutti i livelli e quindi anche a livelli istituzionali più alti, vanno a accertare tutte le responsabilità. Detto questo, secondo me che venga affidato l'arbitrato a un soggetto terzo, in questo caso l'ANAC di Cantone, poi è chiaro, tutti facciamo ironia sul fatto che oramai Cantone fa tutto per questo governo. Ieri qualcuno mi chiedeva, ma combatterà anche contro l'ISIS e contro l'inquinamento? Cantone verrà chiamato in questo ruolo. Però è vero che presso l'ANAC c'è questa camera arbitrale che già, come dire, attiva nel caso degli appalti, che, come dire, si adattava per la sua terzietà, appunto, e anche per la sua capacità tecnica di operare in questo caso su questi arbitrati. Era inevitabile non darlo alla Consob, alla Banca d'Italia. Secondo me questo era abbastanza scontato, perché comunque sono autorità che hanno avuto un ruolo troppo diretto e troppo importante in tutta questa vicenda, per cui era giusto, secondo me, andare in un soggetto terzo. Si ha effettivamente la percezione di un davanti a un problema che coinvolge molto l'opinione pubblica e quindi anche il consenso dell'opinione pubblica o il dissenso dell'opinione pubblica verso alcune istituzioni, c'è un po' la tendenza forse un po' a fare la scaricabarile, ad attribuire ad altri responsabilità per allontanare da se stessi. Invece credo, appunto, sia estremamente importante una collaborazione al di là, appunto, delle responsabilità da accertare, perché vanno accertate su tutti, però in questa fase la collaborazione tra il governo, la Consob, la Banca d'Italia, l'ANAC, in questo caso di Cantone, sarà estremamente importante proprio per portare al risultato deve essere quello di individuare i casi in cui i risparmiatori hanno diritto ad avere un risarcimento, che non sono tutti, vanno accertati caso per caso, e chi, come dire, è stato indotto da un comportamento scorretto da parte delle banche a fare questi investimenti è giusto che abbia i suoi. E ci auguriamo che vada così in fondo. Grazie Fabrizio Forché, buon Natale, perché mi sa che ci sentiamo dopo la Befana. Grazie punto. Roberta, auguri. Ciao Fabrizio, ciao. Adesso, prima di questa piccola pausa di ricreazione, alcuni vostri messaggi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Federico da Firenze insiste, dice: in qualunque altro stato una vicenda come quella della Boschi avrebbe spinto il ministro a dimettersi senza bisogno di mozioni di sfiducia. Poi invece, sulla proposta della Danimarca, vi dicevo, di espropriare dei beni migranti in modo da utilizzarli, questi beni, per la loro accoglienza, la loro assistenza, Paolo dice: mi stavo giusto chiedendo se organi umani, idonei ai trapianti tipo cuore, fegato, rene, retina eccetera, sono considerati beni di valore. Per le fedi invece consiglierei ai danesi il metodo Mussolini. Luca: se questa regola vale per i danesi, è ovvio che deve valere per chi vuole vivere in Danimarca. Maurizia, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice: se sei povero e disagiato ti rendo ancora più povero e poi ti aiuto con un po' di briciole, ma che schifo, dice, sia per gli immigrati che per i danesi. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ci occuperemo delle novità che riguardano il giallo di Marcheno nel Bresciano, dell'imprenditore scomparso, anche se adesso, insomma, comincia già un po' a configurarsi già da tempo in realtà quale possa essere stata la sua sorte. 349-238-6666 per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte sempre anche lì per le vostre opinioni, Roberta Giordano sempre con voi, anche i vostri messaggi sono sempre con me, giorno e notte potete aderire naturalmente alla pagina di Effetto Notte. Stefano, a proposito della proposta danese di espropriare i migranti che arrivano in Danimarca dei loro beni per poterli utilizzare poi per l'assistenza, l'accoglienza eccetera, Stefano scrive: sono sincero carissima Roberta, la tua domanda mi lascia un po' confuso, ti dico una cosa certa, me l'aspettavo e secondo me non finisce qui. Vincenzo: forse mi sono perso qualche cosa, questa è gente che sia dell'intimo pulito e di scorta, è una fortuna, i danesi si preoccupano di sequestrare i beni in eccesso, ma cosa si fumano, dice Vincenzo. Poi Maria dice: mi ricordo ricordi nazisti. Ilaria Eloisa scrive: i danesi si rivelano all'altezza dell'opinione che ne aveva Céline, lo scrittore. Virgo dice: che beni possono avere? Non so. Giulio: ma dove finiremo? Poi Dario dice che è una situazione assurda, una proposta assurda. Adesso invece tra poco entreremo nella intricatissima storia di questo giallo del Bresciano, però vi ricordo prima quali sono i titoli principali della giornata. La mozione dei 5 Stelle non passa la sfiducia alla ministra Boschi, alla Camera, che sottolinea: nessun favoritismo, se no mi dimetterei. Salvini avverte Forza Italia: se non vota la sfiducia, coalizione da ripensare. Vertice europeo, Renzi allo scontro con la Merkel: non dite che la Germania sta versando il sangue per l'Europa, con i tedeschi ci sono divisioni sui depositi bancari. E l'Unione Europea conferma le sanzioni economiche alla Russia. Stati Uniti: Obama nella tradizionale conferenza di fine anno assicura: colpiremo l'ISIS più duramente che mai. Migranti: un barcone affonda nell'Egeo, 4 morti, 3 sono bambini, tutti siriani. Il giallo di Brescia, di cui parleremo tra pochissimo. Mafia Capitale, con l'ex sindaco Alemanno rinviato a giudizio per tangenti, accusato di corruzione e illecito finanziamento ai partiti. E poi la denuncia di Legambiente: da Milano a Napoli smog sopra i limiti e non c'è pioggia in previsione. Pechino lancia un nuovo allarme inquinamento, teme l'apocalisse. E siamo quindi al caso dell'imprenditore scomparso nel Bresciano lo scorso 8 ottobre, Mario Bozzoli. Sono passati praticamente 2 mesi dalla sua scomparsa e c'è una svolta in questo giallo. Mario Bozzoli, vi ricordo, è il titolare della fonderia di Marcheno, che aveva in proprietà con il fratello. È sparito lo scorso 8 ottobre senza, secondo gli inquirenti, mai essere uscito dalla sua azienda. E il giallo poi si è ulteriormente complicato 6 giorni dopo, quando è scomparso un operaio addetto ai forni, Giuseppe Ghirardini, che doveva testimoniare il giorno stesso in cui è scomparso, e scomparso nel nulla, e poi è stato ritrovato cadavere in una zona boschiva a Ponte di Legno, sempre nel Bresciano, e si è scoperto poi in seguito che era stato avvelenato con del cianuro. Si è parlato di suicidio, ma anche i suoi familiari hanno detto: assolutamente no, non possiamo crederci, era una persona solare, in più essendo cacciatore aveva altri modi per suicidarsi, sicuramente con cui avrebbe sofferto meno che non con il veleno. E oggi la svolta, che è scaturita da una pista che, vi dicevo, già si intuiva inizialmente, però che ha tutto da provare. Sono stati indagati per omicidio i nipoti di Bozzoli, figli del fratello Giacomo e Alex Bozzoli, figli del fratello Adelio, con il quale Mario appunto divideva la proprietà dell'azienda, e 2 operai della fonderia. I 4 sono indagati però a piede libero con l'accusa di concorso in omicidio volontario e distruzione di cadavere, ma siccome per il momento ci sono sospetti e non prove, sono per l'appunto ritornati a casa. Ne vorrei parlare con Ernesto Savona, professore di criminologia all'Università Cattolica di Milano. Professore, buonasera. Buonasera Roberta. Che idea si è fatto a questo punto, con questa svolta di questo caso così intricato? Ma sapevamo tutti che lo sfondo era quello di una piccola impresa con rapporti familiari tesi. Abbiamo visto una persona morta in situazioni molto strane, col cianuro vicino, e dopo 2 mesi scattano queste denunce a piede libero, che poi sono anche degli atti dovuti, perché cominciano le indagini vere e proprie, quindi direi che formalmente è un atto dovuto, ma forse c'è qualcosa di più che lega la scomparsa o addirittura il suicidio o l'omicidio della persona, dell'operaio, con questi atti dovuti. Se alcune indiscrezioni sono vere, ma sono soltanto indiscrezioni, certo, questa pista è il cianuro che è stato trovato nella casa di queste persone. Vedo alcuni articoli di giornale che parlano di queste indiscrezioni e sembrerebbe che proprio aver trovato questa sostanza nelle perquisizioni delle case degli operai le abbia poste in relazione con l'operaio, questa scomparsa. Professore, fra l'altro ricordiamo anche che subito dopo la scomparsa dell'imprenditore Mario Bozzoli, la moglie di Mario aveva detto che c'erano profondi screzi con la famiglia del fratello, che Mario addirittura era molto preoccupato fino a voler arrivare a una denuncia, che però non ne parlava in pubblico agli altri perché si vergognava di questa situazione. Però c'era un'area, dicevano, molto tesa. Anche qualche altro operaio ha detto c'era odore di divorzio, i rapporti erano molto tesi tra i fratelli in azienda. Questo è lo sfondo tipico di una piccola impresa, molte imprese nel Veneto sono così, dove rapporti professionali si sovrappongono a rapporti personali. 2 fratelli, 2 nipoti, pochi operai. Lei sa che nelle piccole imprese nel Veneto gli operai vanno a pranzo e a cena con i padroni, dove i ruoli sono poco definiti. Certo, morire o uccidere per uno screzio o per problemi di interesse è una grande tristezza, ma ho la sensazione che il momento stia proprio in questi rapporti tesi. Dico la sensazione perché poi se non si trovano delle evidenze o delle prove rimane un'ipotesi, punto e basta. Diciamo che fra parte le cose rinvenute, reperti in queste perquisizioni che ci sono state a casa dei quattro indagati, va anche ricordato che c'erano stati dei movimenti un po' sospetti prima di arrivare a questo esito, cioè uno dei due fratelli indagati, dei due nipoti, Giacomo 30 anni, con la sua Porsche aveva fatto dei spostamenti nelle vicinanze della fonderia tra le 19 e le 20 dell'8 ottobre, quando è scomparso Mario Bozzoli, e poi l'altro fratello Alex, sempre anche lui indagato di 36 anni, è stato invece immortalato, è un video che è stato fatto vedere diverse volte alla televisione dalle telecamere mentre stracciava alcuni documenti nell'ufficio dell'azienda. Quindi ci sono dei problemi che sicuramente legano in modo conflittuale i fratelli fra di loro e i nipoti. E ricordiamoci che sono i figli del fratello, non del morto, in questo caso questi due ragazzi. Sì, perché i figli invece del morto non lavoravano in azienda, lavoravano, facevano altri lavori. Quindi è proprio questo sfondo della piccola impresa dove si sovrappongono rapporti personali e rapporti economici a essere il movente, lo sfondo per un movente di questo tipo. E poi c'è anche il fatto che in un alto forno, come sembra che sia successo, c'è stato un qualcosa di straordinario, una fumata particolare, e quindi potrebbe essere che si sia consumato proprio con quella tecnica l'omicidio. Se le tracce compaiono o compariranno, saranno sicuramente elementi probanti. Questo è un po' tutto quello che noi sappiamo. Certo, se dopo due mesi gli inquirenti fanno scattare quanto è successo stamattina, vuol dire che hanno qualche cosa in mano, se no non sarebbe scattato nulla, cioè hanno degli elementi per procedere nei prossimi giorni a un atto non solo dovuto formalmente, ma qualcosa di più. Ricordo tra l'altro che questi quattro indagati, questi due nipoti di Mario Bozzoli e i due operai, erano le quattro persone che erano presenti quando Bozzoli è scomparso, e leggevo anche che se Giuseppe Ghirardini, l'operaio trovato morto avvelenato, fosse ancora vivo, anche lui sarebbe stato indagato, perché era l'altra persona che era presente in quel momento. Bisognerà capire lui che ruolo ha avuto, e naturalmente, come dice lei, professor Savona, nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi. Io ho la sensazione che capiremo molto per una ragione abbastanza semplice: quando ci sono quattro persone coinvolte e cominciano poi ciascuno a salvare se stesso ed accusarsi reciprocamente, è un meccanismo che purtroppo succede. Se un solo personaggio che commette un omicidio, è più facile che conservi dentro di sé il segreto. Se ci sono quattro persone coinvolte, se gli inquirenti sanno fare il mestiere, e sicuramente questi lo sanno fare bene, alla fine arriveranno contraddizioni che metteranno in risalto quello che è vero movente. Diciamolo, speriamo, perché sicuramente questo è un episodio che ha destato molta preoccupazione in quell'area lì. Grazie professor Savona, allora ai prossimi sviluppi. Grazie a lei, professore. Roberta, buonasera. Buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo in pochi secondi adesso le notizie più importanti, che sono Renzi che sfida la cancelliera Merkel al vertice europeo e dice non dite voi tedeschi che donate il sangue all'Europa. Bruxelles spinge intanto per l'unione bancaria mentre la Germania frena. Non passa la sfiducia alla ministra Boschi alla Camera, 373 no. Intanto sul fallimento della Banca Etruria è stato aperto un fascicolo dalla procura di Arezzo per truffa, nessuno indagato per il momento. L'Italia senza respiro, denuncia di Legambiente, da Milano a Napoli smog sopra i limiti, e Pechino sono conciati decisamente peggio, una nuova ondata di inquinamento, emergenza fino a martedì. E poi Obama nella sua conferenza stampa tradizionale di fine anno, che dice il presidente siriano Assad deve lasciare per mettere fine a questo bagno di sangue. Mafia, Roma Capitale, ex sindaco Alemanno a processo per tangenti, accusato di corruzione e illecito finanziamento ai partiti. E poi la svolta, avete sentito sul giallo di Marcheno, di cui abbiamo appena parlato. Europa 24 notte.

in cui l'uomo ha molte responsabilità, le stiamo pagando. Ebbene, adesso fino a fine anno grandi cose non capiteranno, weekend quindi discreto, ma ancora con tanto inquinamento, niente neve in montagna, niente pioggia in pianura e temperature che al centro-sud toccheranno anche i 15-16 gradi, altro che inverni, insomma. Altro che inverni, tra l'altro, altro che l'anno prossimo, che record di quest'anno, perché dal Met del britannico ho sentito che il 2016 sembra pronto a strappare il record al 2015 per il caldo, eh? Dovrebbe esatto, essere più caldo dal 1880 al 2016. È vero, allora, scherzato, 1880 è una data che viene fissata perché da lì si hanno dati meteorologici precisi, ma magari si potrebbe anche andare un po' più indietro. 2015 ha già battuto, nonostante non sia ancora finito, tutti i record di caldo. Il 2016 probabilmente andrà avanti, a dimostrazione che insomma questo riscaldamento globale è in atto, questo cambiamento climatico è evidente. A Parigi sono state prese delle decisioni importanti, speriamo che riusciremo a rispettare. Grazie Paolo Corazon. Ciao Paolo, buon tempo a te comunque ciao. Sia. Ciao Paolo. Ciao. Ci riaggiorniamo alle 22.